L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti al nostro consueto ripasso delle notizie più importanti della settimana. Come sapete, la nostra formula ormai è consolidata, quindi ripercorreremo tutto quello che è successo da sabato scorso, 19 settembre, fino a ieri, 25 settembre. C'è tantissima carne al fuoco, parleremo di Obama, di clima, di influenza A con i suoi misteri, con le sue preoccupazioni, di Briatore e i problemi della Formula 1, ma intanto partiremo con la politica. Infatti è stata un'ennesima settimana caotica, direi anche velenosa per certi aspetti. Abbiamo visto le polemiche sulla libertà di stampa, tema ormai immarcescibile, sempre verde. La RAI, poi attorno al caso anno zero di Santoro, ci sono state le nuove virulenze di Brunetta che sabato scorso ha mandato letteralmente a morire ammazzato una certa parte di sinistra, di intellettuali di sinistra, che a suo dire fanno male all'Italia. E poi abbiamo visto gli ultimi scampoli dell'affare Tarantini, escort, cocaina e quant'altro. Ma insomma, in questo fitto calendario di appuntamenti, in questo calderone di tante storie legate alla politica italiana, direi che c'è stato anche un Consiglio dei Ministri molto importante martedì che ha approvato la finanziaria. Allora ascoltiamo i dettagli con Vincenzo Miglietti e poi con un ospite discutiamo in studio sul tema. Tre articoli, diverse tabelle con un miglioramento per i conti pubblici tra entrate ed uscite di 12 milioni di euro. Palazzo Chigi approva la finanziaria 2010, un provvedimento, spiega il presidente del Consiglio Berlusconi, mirato alla stabilizzazione dei conti e ad aiutare il paese ad uscire dalla crisi. Per un'uscita della crisi, uscita che noi prevediamo sarà per l'Italia, avverrà per l'Italia prima e meglio degli altri paesi. Di fatto non si tratta di una manovra, ma di una fotografia della situazione di bilancio, spiega il ministro dell'Economia Tremonti. Questa è proprio le tabelle secche, cioè non c'è nessuna manovra, non ci sono tasse, non ci sono tagli, non ci sono aggiunte, non ci sono sottrazioni. Migliorano poi le stime del prodotto interno lordo, il segno resta negativo, ma per quest'anno si prevede una contrazione della crescita del 4,8% contro il 5,2% del DPF. In salita il debito. Per i contratti pubblici ci sono 3,4 miliardi, viene prorogato al 2012 il bonus ristrutturazioni. Altri interventi arriveranno in autunno, anticipa il governo, fondi per le missioni all'estero, riforma dell'università, finanziamento del 5 per 1000, detassazione del lavoro. Misure queste che saranno finanziate, tra l'altro, spiega Tremonti, con le maggiori entrate derivanti dallo scudo fiscale. E proprio in tema di scudo si conferma infine la non punibilità delle violazioni contabili come il falso in bilancio. Critica l'opposizione. E allora, per parlare della finanziaria appena approvata, ma soprattutto della norma che poi è stata quella più discussa della settimana, quella cioè dello scudo fiscale allargato, di cui ha anche parlato il servizio di Vincenzo Miglietti, abbiamo in studio Dino Pesole, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno Dino. Buongiorno Emiliano, grazie per l'invito. Allora Dino, quante finanziarie hai visto, hai letto, ti sei dovuto studiare nella tua carriera di cronista? Tantissime, molte, però devo dire che questa finanziaria ha una caratteristica che finora non avevo osservato, né mi era capitato di seguire. Vale, tu l'hai definita ultraleggera addirittura. Sì, è una finanziaria che in realtà è una finanziaria senza manovra, quindi sostanzialmente è una finanziaria che rinvia al bilancio. Sostanzialmente, dico, perché di fatto non modifica né attraverso, diciamo, tagli né tasse quello che si chiama il bilancio a legislazione vigente. Sostanzialmente cosa fanno? Aggiornano semplicemente il quadro triennale che era stato anticipato dalla finanziaria dello scorso anno. Punto. A tuo giudizio questo metodo è efficace, ha un senso rispetto alla tradizione italica a cui eravamo abituati? È un metodo che sicuramente innova profondamente. Devo dire che già l'anno scorso, per la verità, si era lasciato un po' alle spalle la tradizione cui siamo stati abituati per decenni delle finanziarie, questi vagoni infiniti che transitavano. Il famoso assalto alla diligenza. Esatto. Ora questa finanziaria si presenta in modo molto asciutto. Sostanzialmente sono tre articoli, poche tabelle che rinviano, come diciamo poc'anzi, al bilancio. Quello che si prospetta in realtà, e come lo stesso ministro dell'economia Tremonti ha anticipato, è un secondo tempo della manovra, quando sarà più chiaro il quadro delle entrate, e questo avverrà in autunno, tra novembre e dicembre. Regalo di Natale, insomma. In questo caso potrebbe essere anche di più di un regalo di Natale, potrebbe essere addirittura la manovra vera, quella che non c'è in questa finanziaria. Infatti già si ipotizza, i tecnici sono allo studio proprio in questi giorni per verificare l'effettiva possibilità di mettere in campo delle misure che addirittura potrebbero ammontare a 5, 6, 7 miliardi, quindi una manovra cifre vera. Importanti, insomma, pesanti. Tra l'altro a quel punto, alla fine dell'anno, saranno arrivati in cassa, almeno così si spera, i soldi per lo scudo fiscale allargato. Mercoledì abbiamo visto un voto al Senato molto concitato, alcuni parlamentari hanno abbandonato l'aula, addirittura l'Italia dei Valori ha esposto dei cartelli molto, molto pesanti, hanno detto insomma che i mafiosi ringraziano questo provvedimento voluto da Tremonti. Tra l'altro Di Pietro anche in queste ore sta battendo su questo tema. Tra poco entreremo nel merito dello scudo fiscale allargato. Io però vorrei capire da te, Dino, che cosa in realtà poi è stato votato al Senato in questi giorni. È stato votato nient'altro che un emendamento presentato da un senatore della maggioranza che si chiama Salvo Fleres. Emendamento che in sostanza allarga il raggio di azione dello scudo fiscale. Lo scudo fiscale è stato introdotto, lo ricordiamo, attraverso la manovra anticrisi della scorsa estate. Un decreto legge che ha reintrodotto, perché questa è la terza versione dello scudo, la prima era del 2001, l'altra del 2003, ha reintrodotto lo scudo fiscale, che poi in sostanza è un'agevolazione, si pagherà il 5% per quanti faranno rientrare nel territorio nazionale capitali o attività finanziarie che sono state esportate illegalmente. L'emendamento del senatore Fleres allarga il raggio d'azione rispetto alla stesura originaria e lo allarga a una serie di reati. Ecco che a cui garantisce una immunità, di fatto. Eh sì, cioè quanti rientrano nelle fattispecie dei reati che sono elencate nell'emendamento potranno accedere allo scudo. Occorre però ricordare che quel decreto è stato varato su esplicita richiesta del Quirinale alla fine di luglio, e il Quirinale aveva chiesto che fossero esclusi i procedimenti in corso. E questa esclusione è stata confermata. Questa esclusione è stata confermata, però è stato ampliato il raggio d'azione dello scudo a reati che prima non c'erano. Quindi ecco, e su questo c'è poi la controversia e il dibattito anche feroce in Parlamento. Allora adesso ascoltiamo proprio su questo una durissima posizione presa dalla ANM, dall'Associazione Nazionale dei Magistrati, attraverso la voce del suo segretario Giuseppe Cascini, ieri al microfono di Raffaella Calandra. Intervenire in maniera così massiccia, con una sorta di amnistia o di sanatoria per tutti i reati commessi a fine di evasione fiscale, oltre a essere un'ingiustizia in sé, è anche un messaggio fortemente negativo nei confronti di tutti quei cittadini che invece hanno pagato le tasse. I capitali accumulati attraverso le frodi carosello possano diventare leciti pagando un piccolo obolo del 5%. L'intervento del legislatore rappresenta un'ottima occasione per continuare in queste pratiche illecite. Prevedete un aumento di questo tipo di pratiche? In primo luogo segnaliamo l'ingiustizia di assicurare l'impunità a chi ha commesso dei reati molto gravi. In secondo luogo il messaggio che ne viene è sicuramente quello di continuare così, perché così il crimine paga. In realtà molte inchieste, quelle sulle scalate bancarie, hanno dimostrato che un intervento severo può dare anche frutti per le casse dello Stato, forse addirittura maggiori di quelli che si otterrebbero attraverso le sanatorie. Dino Peso, è telegrafico perché poi ci ritorniamo dopo la pausa. Le argomentazioni di Cascini hanno una loro ragione o no? Hanno una loro ragione se si considera che buona parte di questi capitali esportati derivano essenzialmente o da evasione fiscale o da attività illecite. Il problema è però stabilire in via di principio se si accede o no a questo provvedimento agevolativo. Qui si apre una problematica. L'ottavo giorno. Siamo ancora in compagnia di Dino Pesole, collega giornalista economico del Sole 24 Ore. Stiamo affrontando l'argomento economico, almeno sul fronte italiano, della settimana, delicatissimo, lo scudo fiscale. Abbiamo già gettato nello stagno qualche amo e qualche argomento di riflessione. Intanto però non abbiamo ancora detto quanto il governo, o in particolare Tremonti, prevede di recuperare con questo scudo fiscale entro la fine dell'anno. Questa è la variabile fondamentale, perché questo provvedimento è stato adottato con questa esplicita, se non esclusiva, finalità: fare gettito. Siamo in una situazione critica, lo dimostra l'andamento dei conti pubblici, siamo nel pieno di una crisi internazionale e globale, forse se ne riuscirà a venire a capo nella seconda metà dell'anno che verrà, e il governo ha ritenuto di poter in questo modo racimolare risorse aggiuntive. Le stime che si fanno oscillano tra un minimo di 2 e un massimo di 4-5 miliardi. Quindi sarà un gettito... Beh, la differenza è notevole tra 2 e 5. Insomma. La differenza è notevole, però è ovvio che sia così, perché è difficilissimo prevedere quanti accederanno alla regolarizzazione. Si fanno ipotesi così ampie perché nel caso in cui una fetta di quanti hanno esportato illegalmente all'estero decida di rimpatriare sia inferiore alle aspettative o in linea o superiore alle aspettative. Si fanno simulazioni, da qua questo range così ampio. In teoria l'allargamento dello scudo fiscale dovrebbe aumentare naturalmente il numero di clienti, di fruitori dello stesso scudo fiscale. È stato fatto per questo, infatti il senatore Fleres, di cui parlavamo prima, nel presentare in commissione al Senato e poi in aula il suo emendamento lo ha motivato esattamente così. Se non facciamo così, i soldi che abbiamo programmato non entrano. Quindi la motivazione è questa. Allora, sempre per affondare sul tema dello scudo fiscale, vorrei sfruttare la tua presenza per analizzare alcune cose molto interessanti. Secondo me, chi ha detto a Repubblica qualche giorno fa, l'economista francese Jean-Paul Fitoussi, molto famoso anche qui in Italia, insegna alla LUIS, parla perfettamente l'italiano, conosce il nostro paese. Lui è molto critico con lo scudo fiscale, però al di là di questo, che è un dato acquisito che non mi sorprende da parte di Fitoussi, ci sono alcune cose interessanti che ha detto. Prima di tutto ha fatto notare che se scudo fiscale doveva essere, bisognava comunque mettere almeno una clausola che bloccasse questi soldi che rientrano dall'estero in Italia per un tot di anni. Lui faceva l'ipotesi di 3-4 5 anni, perché sennò c'è il rischio che una volta rientrati poi questi soldi di nuovo scappino. Allora, è così? Non esiste questo blocco dei soldi in Italia per un numero anche minimo di anni? È esattamente il problema che si è posto nella prima e seconda edizione dello scudo, 2001-2003. E infatti, quanti hanno... Dove non c'era questa clausola. Quanti hanno criticato la riproposizione di questo scudo, hanno detto, ma chi ci garantisce che poi questi soldi restino effettivamente nel territorio nazionale? Il problema fondamentale è che... Perché poi una delle speranze è che questi soldi vengano reinvestiti in Italia, anche quindi fare economia, certo, fare economia e quant'altro. Il problema fondamentale è che il rimpatrio e la regolarizzazione sono protetti dall'anonimato. Quindi, perché sennò ovviamente potrebbe non esserci la convenienza. Anche se in queste ore stanno arrivando dei primi elenchi di evasori con conti all'estero e ci sono anche nomi eccellenti di sportivi, quindi poi c'è il rischio di andare incontro anche così a degli effetti indesiderati, no, in questa manovra. Io credo che a questo riguardo la discussione che si può fare è sostanzialmente questa: se piace o non piace questo provvedimento. Ovviamente comporta dei problemi, perché l'estensione, come abbiamo detto poc'anzi, a dei reati che di fatto vengono in qualche modo salvati per chi accede allo scudo, certamente apre numerose critiche, numerose perplessità, soprattutto per quanti continuano a pagare onestamente le tasse e vedono premiati gli evasori o chi commette attività illecite. Quindi c'è una discussione sia penale che anche però morale, etica, del famoso buon esempio della politica. Però dall'altro canto il governo sostiene, e lo ha esplicitato il senatore della maggioranza, ma anche il ministro Tremonti, che in una fase del genere recuperare maggior gettito può servire ad esempio a creare maggiori risorse per distribuirle anche alle fasce più deboli. Qui si tratta, come dire, di due scuole di pensiero, secondo me entrambe legittime. Da una parte la valutazione etico-morale, ma anche di equità, che viene sollevata, dall'altro la realpolitik di chi dice ma io ho bisogno di soldi e quindi questa è una strada. Per chiudere questa ampia parentesi sullo scudo fiscale, nel frattempo c'è già chi tira in ballo Napolitano, lo tira per la giacchetta. Lui stesso è sembrato molto cauto, il Presidente della Repubblica ha detto voglio leggere attentamente il testo del governo, poi valuterò se firmare o meno. Quali sono i margini di Napolitano di fronte a questa legge, a questa iniziativa del governo? Su questo punto io vorrei dire una cosa molto chiara: noi non possiamo pensare che Napolitano diventi la terza camera o diventi la, come dire, funzione di supplenza rispetto a quello che non viene fatto correttamente da parte di chi invece il potere esecutivo e legislativo. Il capo dello Stato ha già detto la sua e infatti ha chiesto che quel provvedimento originario, diciamo poc'anzi, fosse corretto. Io penso che a questo punto i margini siano molto limitati, perché quindi con ogni probabilità firmerà. Io penso di sì, perché l'unico modo per opporsi a un provvedimento del genere è che il capo dello Stato, come prevede la Costituzione, riscontri nel testo che gli arriverà tra breve per la controfirma delle palesi violazioni del dettato costituzionale oppure dei difetti di copertura finanziaria come prevede l'articolo 81. Se questi non ci sono, è difficile che lui possa intervenire. Potrebbe sollevare una obiezione politico-etica, e questo non è escluso che lui lo faccia, magari accompagnando l'approvazione con una lettera, come ha già fatto. Con le note a margine. Sì, con una missiva dedicata al Parlamento o al governo, insomma. Dino Pesole, collega economico, economista del Sole 24 Ore, grazie per il contributo della riflessione in questo tema spinoso dello scudo fiscale. Noi adesso, sempre per restare al clima politico della settimana, affrontiamo un altro tema sempre verde, cioè quello della libertà di informazione. In questo paese si dibatte tanto se ci sia o meno il regime. Questa settimana tutto ruotava attorno ad Anno Zero, allo show di Santoro su Rai 2 di giovedì sera. Ci sono state polemiche a non finire, c'è stato il contratto di travaglio in bilico fino all'ultimo, anche adesso insomma c'è molta incertezza attorno al destino in Rai di Travaglio. Masi, il direttore generale della Rai, è stato in commissione vigilanza in questi giorni, persino su Fabio Fazio, quindi qui andiamo su Rai 3, che tempo che fa c'erano dei dubbi. Alla fine i due anni di contratto sono stati sbloccati. Poi giovedì Santoro è andato regolarmente in onda, ha avuto un ottimo successo di ascolto perché ha superato i 5 milioni, oltre il 20% di share. Vediamo allora com'è andata questo debutto di Santoro nel servizio di ieri mattina di Paolo Panceri. Ben trovati, siamo qui con un po' di ritardo, ma insomma faremo a tempo a recuperare, e soprattutto con noi c'è, state tranquilli, Marco Travaglio, senza contratto, ma insomma le cose si andranno a sistemare. Allora, chi si aspettava fuochi d'artificio dalla prima puntata di Anno Zero è rimasto deluso. Il conduttore Michele Santoro non ha assunto i toni baricadieri dei giorni scorsi nei confronti della ancora non avvenuta firma del contratto di collaborazione a Marco Travaglio. Nel prologo della trasmissione Santoro ha indirettamente risposto alle accuse del premier Silvio Berlusconi ai giornalisti, che aveva definito farabutti, titolo della puntata di ieri, e ha ribadito il diritto alla diversità. Cosa sarebbe la Rai senza Report, senza Che tempo che fa, senza Anno Zero, senza Ballarò? Beh, questa è una riflessione che potete fare voi tutti. Anche l'andamento della trasmissione non è trasceso più di tanto dagli schemi polemici ormai consueti in televisione, e quindi in studio si sono visti battibecchi tutto sommato prevedibili tra Dario Franceschini del PD e Italo Bocchino del PDL tra i politici, e fra Concita De Gregorio, direttore dell'Unità, e Maurizio Belpietro, direttore di Libero. Tutto abbastanza tranquillo dunque, in attesa della firma del contratto di Travaglio, ieri giornalisticamente inappuntabile e a costo zero per la Rai, ma ha precisato lo stesso Travaglio per la prima e ultima volta. Adesso torniamo a parlare di economia e seguiamo la lunga settimana di Obama, che è stato sicuramente uno dei protagonisti di questi giorni. L'abbiamo visto a New York alla conferenza dell'ONU, c'è stato un importante incontro tra Netanyahu e Abu Mazen al quale Obama è stato presente, ha fatto un po' da garante, e poi è stato il padrone di casa al G20 di Pittsburgh di giovedì e venerdì di ieri. Sentiamo allora la cronaca della prima giornata con Mario Platero, che era proprio a Pittsburgh al seguito di Obama. Era nell'aria già da qualche giorno che questo G20 di Pittsburgh avrebbe lasciato un segno sulla storia. Ebbene, da ieri sera, con le dichiarazioni del segretario al tesoro Tim Geithner, sappiamo che questo G20 avrà una portata, nelle sue parole, non dissimile da quella che ebbe Bretton Woods, una riforma completa dunque della gestione, della governance del sistema monetario e finanziario mondiale. In che modo? Beh, gli Stati Uniti, d'accordo con la Cina inizialmente, ma poi con gli altri 18 paesi, hanno messo appunto un documento quadro che prevede la gestione macroeconomica delle economie mondiali in modo tale da poter eliminare gli squilibri. Ad esempio, gli Stati Uniti non potranno più consumare come consumavano fino a pochi anni fa, soprattutto indebitandosi, dovranno invece risparmiare, cosa che non facevano. La Cina dovrà ridurre le proprie esportazioni e puntare sulla domanda interna. Questo il fatto nuovo per gli aspetti macroeconomici, ma ci saranno anche accordi sulle regole per i sistemi finanziari, per controllare gli stipendi eccessivi dei banchieri, e infine una riforma delle istituzioni multilaterali con un maggiore accesso ai paesi emergenti. Ieri a Pittsburgh, a conclusione del G20, è stato siglato un vero e proprio patto tra i grandi dell'economia mondiale per realizzare una crescita economica sostenibile. Tra l'altro è stato deciso anche di affrontare l'allarme disoccupazione e di impedire ogni forma di protezionismo. Restando invece ad Obama, in questa sua lunga eterna settimana, ieri tra l'altro avrà sicuramente ascoltato il messaggio di Bin Laden, rivolto però all'Europa, ha invitato gli europei a lasciare l'Afghanistan. Dicevo, in questa settimana lunghissima di Obama c'è stato un momento molto importante quando ha affrontato il tema altrettanto delicato del disarmo nucleare. Tutto accade giovedì, sentiamo Sergio Nava. Aveva promesso mercoledì una nuova era di pace e cooperazione Barack Obama. Aveva indicato, al proposito, quattro pilastri da seguire: disarmo nucleare, pace e sicurezza, clima, economia. Quattro priorità elencate non a caso. Infatti, il presidente americano le ha abbracciate tutte in una settimana vissuta da protagonista sul palcoscenico internazionale. Accantonato il clima, fonte in realtà di qualche dispiacere per le troppe resistenze interne al cambiamento, Obama ha lanciato la seconda sfida, il disarmo nucleare, che implica nei fatti pace e sicurezza per il mondo. Anche in questo caso il simbolismo e il momento storico hanno superato la reale efficacia pratica della risoluzione 1887 votata ieri dall'ONU, che disegna un mondo privo della minaccia nucleare entro 4 anni. Dichiarazione, dicevamo, simbolica, che non cita nemmeno i paesi sul tavolo degli imputati per aver perseguito e per perseguire tuttora programmi di armamento al di fuori dei trattati. Ma Obama ha deciso di seguire una strada diversa rispetto al texano Bush. Va all'ONU, istituzione snobbata e quasi ridicolizzata dal predecessore, e si mette a capo del nuovo ordine globale che intende disegnare. Cerca alleanze che superino divisioni passate. Speriamo davvero che quella chiesta ad Obama sia la strada giusta verso il disarmo, però intanto dobbiamo registrare che ieri l'Iran ha fatto sapere di avere un secondo impianto per l'arricchimento dell'uranio. Non è certo la migliore notizia possibile dopo la risoluzione dell'ONU. L'ottavo giorno. Ci siamo lasciati prima della pausa con Obama e i suoi sforzi congiunti a quelli dell'ONU per il disarmo nucleare. Sempre il presidente Obama ha messo tra i quattro pilastri per il futuro del pianeta proprio la promozione della pace per un mondo sicuro. Però giovedì a New York torna improvvisamente la paura degli attentati. Dagli Stati Uniti il servizio di Luciano Clerico. Torna l'allarme terrorismo a New York. Per la prima volta l'11 settembre 2001 l'FBI ha denunciato di aver scoperto un piano per un attentato dove si dovevano utilizzare armi di distruzione di massa. E questa è l'accusa gravissima mossa nei confronti di Najibullah Zazi, un autista di autobus afghano di 24 anni, arrestato sabato scorso a Denver, in Colorado. Ieri la sua incriminazione è stata formalizzata davanti a un gran giurì di New York. Secondo l'FBI, nei confronti del giovane ci sono elementi per ritenere che stesse organizzando un complotto per far esplodere bombe contro obiettivi americani. L'accusa non dice dove, ma dice che il modello preso a riferimento era quello degli attentati alle metropolitane di Londra e Madrid. In casa sua gli è stato trovato, tra l'altro, un video della stazione centrale di New York, Grand Central, anche se questo particolare non è ritenuto di rilievo nell'ambito del capo d'accusa. Il giovane è stato arrestato perché la sua minaccia era ritenuta credibile. È la prima volta dall'11 settembre 2001 che accade un fatto di questo tipo. Arrestati anche e rilasciati su cauzione il padre di Zazi, Mohamed, che vive in Colorado, e un imam di New York per aver fornito false dichiarazioni. L'imam è stato liberato dopo aver pagato una cauzione di $1.5 million. E torniamo all'Assemblea dell'ONU di metà settimana, perché uno dei temi centrali che si è discusso a New York, al Palazzo di Vetro, è stato sicuramente il clima, anche per scelta netta, chiara, inequivocabile di Ban Ki-moon. Tra poco commenteremo i risultati di quanto abbiamo sentito, quanto si è detto a New York. Intanto riascoltiamo la cronaca della giornata di martedì, firmata da Sergio Nava. Climate change is the preeminent geopolitical an economic issue of the 21st century. Ban Ki-moon chiama, Obama e Eugene Tao rispondono. Il segretario generale dell'ONU parla di un ritmo glaciale nella velocità di progresso dei negoziati per un nuovo accordo sul clima in vista del vertice di fine anno a Copenaghen. Abbiamo meno di 10 anni per evitare gli scenari peggiori, ha poi chiosato. Un assist importante per un Barack Obama alla ricerca di una forte pressione esterna per mandare in porto la sua rivoluzione verde, che nel Senato americano fatica maledettamente a passare le forche caudine dei congressisti. La minaccia è grave, urgente e crescente. Se non agiremo, rischiamo di consegnare alle future generazioni una catastrofe irreversibile, ha detto Obama, ammettendo che il suo paese sta facendo troppo poco, anche se, ha aggiunto con speranza, ha accelerato molto il passo. Obama ha invitato la Cina e l'India, le due maggiori potenze emergenti, a fare la loro parte, messaggio immediatamente raccolto dal presidente cinese Hu Jintao, che ha promesso un taglio cospicuo delle emissioni entro il 2020. Hu Jintao ha evitato di prendere impegni troppo vincolanti, a parte la l'aggancio degli obiettivi climatici al PIL e l'incremento delle fonti rinnovabili al 15% sul totale della produzione energetica. I segnali più confortanti sono giunti dal Giappone, taglio delle emissioni annunciato del 25% entro il 2020, mentre il presidente francese Nicolas Sarkozy ha osservato, preoccupato, i negoziati sono a un punto morto. Ci ha raggiunto al telefono Marco Magrini, collega giornalista del Sole 24 Ore, esperto di questioni ambientali e climatiche. Buongiorno Marco. Buongiorno. Allora Marco, abbiamo riascoltato la cronaca di quello che è successo martedì al Palazzo di Vetro, il tema del clima fondamentale in questo vertice dell'ONU, però tu stesso Marco, scrivendo sul giornale, sul Sole 24 Ore e anche alla radio, hai fatto capire che a tuo giudizio tra tutti i leader mondiali che sono sfilati per parlare di clima, il migliore o perlomeno quello che ha rubato la scena è stato Hu Jintao, il leader cinese. Perché questa tua preferenza per Hu Jintao? Beh, è una preferenza per modo di dire, ma semplicemente perché il leader cinese ha parlato davanti a tutti i paesi del mondo, era il suo primo intervento alle Nazioni Unite e sostanzialmente ha detto che la Cina non intende trascurare il problema del cambiamento climatico, che ne è consapevole e che nonostante gli accordi internazionali del 92 non prevedano nessun obbligo per la Repubblica Popolare, la Cina è pronta a ridurre l'impatto della, come dire, l'impatto della sua crescita in termini energetici. Che cosa vuol dire? Lui ha parlato, pur senza dare cifre, ma dicendo che saranno cifre significative, si dice pronto a sganciare la crescita economica cinese dalla crescita dei consumi di energia. Quindi, in altre parole, diventare sensibilmente, energeticamente più efficienti. È una buona notizia, senza dubbio, anche perché la Cina, se vuoi anche in virtù del suo particolare regime politico, sta già investendo più di chiunque altro delle energie rinnovabili e non ho alcun dubbio che questa promessa Hu Jintao la manterrà. Magrini, chi invece forse ha un po' deluso le aspettative, se non altro perché le aspettative erano molte, è stato invece Obama, il presidente americano, perché anche lui ha detto bellissime parole, ha ribadito gli intenti, se vogliamo, meravigliosi della sua rivoluzione verde, però forse ha fatto capire che la realtà del Congresso americano è ben diversa e ha in parte Obama le mani legate. Come sta Obama dal tuo punto di vista? Sicuramente la sua arte oratoria non ha rivali e le cose che ha detto sono sicuramente le più belle, le parole più belle in assoluto che sono state dette sul tema. Il fatto che vengano dal presidente che è succeduto a George W. Bush, che diceva esattamente il contrario, è arrivato a negare che esistesse un problema del cambiamento climatico, almeno nei primi anni della sua presidenza. Obama non è che, come dire, l'interprete migliore di queste aspettative. Il problema, come giustamente dicevi te, ha le mani legate perché la sua proposta di legge per il contenimento delle emissioni, che peraltro è molto molto più debole di degli impegni già presi dai paesi europei, è stata approvata alla Camera Bassa, ma non al Senato, perché al Senato si dà per scontato che attualmente non passerebbe mai, perché ci sono fra i 6 e gli 8 senatori democratici, quindi dello stesso partito del Presidente, che sono orientati a votare contro e non c'è nessun repubblicano disposto a prendere il loro posto, per cui arrivare a portare questa legge in Senato attualmente vorrebbe dire farla morire o annacquarla terribilmente. E quindi gli stessi democratici potrebbero far cozzare così i sogni di Obama in ambito climatico, in ambito di rivoluzione verde al Congresso. Veniamo invece ad una piccola querela, un piccolo caso tutto italiano che invece è legato ai rapporti con Bruxelles, all'Unione Europea, che è andato in scena in questi giorni, riguarda le emissioni di CO2. Tra poco Marco Magrini ti chiederò naturalmente un parere, soprattutto di farci capire bene come stanno le cose. Intanto riascoltiamo il servizio andato in onda ieri mattina di Valeria De Rosa. Tutto è cominciato poco più di una settimana fa, quando a Bruxelles è arrivata una lettera proveniente da Roma in cui il presidente Berlusconi richiamava l'attenzione del presidente Barroso sulle quote di anidride carbonica assegnate all'Italia. Troppo ridotte, le aziende non ce la fanno. Risposta netta dalla portavoce dell'esecutivo europeo. Il tetto di CO2 assegnato nel 2007 non si può toccare perché frutto di un processo basato sulla legislazione europea. Palazzo Chigi non ci sta e manda fuori una nota. Non abbiamo mai chiesto una rinegoziazione. L'obiettivo era quello di segnalare le gravi difficoltà delle aziende italiane nel rispettare le quote. La lettera, si legge ancora nella nota, aveva il solo scopo di sottoporre il problema a Barroso, chiedendo il suo interessamento per arrivare a una soluzione condivisa. Il piano assegna all'Italia quote di emissione di poco superiori a 195 milioni di tonnellate di anidride carbonica, oltre il 6% in meno di quanto chiesto dal governo italiano, che dopo l'assegnazione ha avuto a disposizione 2 mesi per fare ricorso. Un ricorso mai presentato. Marco Magrini, giornalista del Sole 24 Ore, esperto di questioni ambientali, a sentire, a risentire questo servizio della collega Valeria De Rosa, sembra che il mistero si infittisca, perché si parla di un ricorso in realtà mai presentato. Palazzo Chigi nega che ci siano stati dei problemi con Barroso, l'opposizione naturalmente è subito scesa sul piede di guerra e addirittura ha parlato di inquinatore mascherato riferendosi a Berlusconi. Ci puoi spiegare esattamente come stanno le cose? Ma senti Emiliano, per spiegare bene come ci stanno le cose probabilmente non basterebbe una trasmissione, perché in un minuto proviamoci. È una materia talmente complicata, quella legata al protocollo di Kyoto, che sarebbe veramente difficile spiegarlo in un istante. Il commento che vorrei fare attiene, se vuoi, alla lungimiranza, nel senso che è vero che c'è tutta una grande questione regolamentare, burocratica, che divide non solo l'Italia ma anche altri paesi come la Polonia e l'Estonia rispetto alla posizione della Commissione di Bruxelles. Il problema è che sin dal primo momento il protocollo di Kyoto è stato in qualche modo preso sul serio subito da dei paesi e preso sotto gamba da altri. Prima ancora che entrasse in vigore, visto che gli Stati Uniti non lo hanno firmato ma non lo hanno mai ratificato, si dava per scontato che non sarebbe nemmeno mai entrato in vigore, perché non c'erano abbastanza paesi che l'avrebbero ratificato. L'Unione Europea poi convince la Russia e il protocollo di Kyoto entra effettivamente in vigore a sorpresa per molti. Quelli che non si erano mossi per tempo ovviamente non hanno fatto un'azione di lungimiranza. E tra questi metti anche l'Italia, Marco. Tra i quali ci metto ovviamente anche l'Italia, e la metto abbastanza in prima fila. Si trovano ovviamente in difficoltà perché non hanno intrapreso per tempo quelle operazioni di ripulitura, di investimento per ripulire le emissioni da combustibili fossili, che viceversa avrebbero messo il paese in tutt'altra situazione. L'esempio, uno degli esempi più celebri, ma ne potrei portare altri, è quello della Danimarca, che negli anni, alla fine degli anni Ottanta, quindi ancora prima, decide di puntare sull'eolico. Cambieranno molti governi in Danimarca da quel momento in poi, ma tutti terranno la barra dritta in quella direzione. Il risultato è che la domenica, quando le fabbriche sono chiuse, la Danimarca va praticamente a vento, e le maggiori imprese del mondo nella costruzione di turbine eoliche sono, indovinate dove, in Danimarca. Quindi si tratta giusto appunto di una lezione di lungimiranza, e la inquadrerei più in questi termini che non nella spicciola discussione che abbiamo assistito, alla quale abbiamo assistito in Marco, sei stato molto chiaro. Tra l'altro, facendo il paragone della Danimarca, hai indirettamente parlato anche di casa nostra e dei nostri problemi. Ti vorrei chiedere un'ultima cosa, perché abbiamo letto in questi giorni nei giornali che, secondo un calcolo fatto dagli scienziati, da ieri, da venerdì 25 settembre, la Terra è entrata in riserva, cioè ha già utilizzato tutte le risorse naturali disponibili per il 2009, quindi acqua, energie, minerali. Che significa veramente in 30 secondi? Significa che il mondo, anche grazie alla crescente popolazione, ha cominciato da un pezzo a consumare più risorse di quelle che avrebbe a disposizione. E questo purtroppo si inserisce in un dibattito che io credo necessario alle Nazioni Unite, dentro gli stati, dentro perfino le città, perché è ovvio che il problema, incluso il problema del cambiamento climatico, non è una cosa che investe la mia generazione, io ho 50 anni, ma investe con certezza i miei figli e con assoluta drammaticità i miei nipoti. Quindi la domanda alla fine resta sempre quella: come cambiare il nostro uso delle risorse naturali in modo che la civiltà umana sia più sostenibile. Su questa domanda davvero ponderosa, alla quale è davvero ancora più difficile forse trovare una risposta, ringrazio Marco Magrini, giornalista del Sole 24 Ore, esperto di questioni ambientali e climatiche. L'ottavo giorno. Minuti finali della puntata odierna dell'ottavo giorno, che voglio aprire con l'influenza A, perché in settimana in molti sono tornati, siamo tornati forse a preoccuparci. Non c'è dubbio, insomma, che un morto di influenza A faccia notizia, più magari di tante altre morti legate per esempio anche alla stessa influenza stagionale, magari finisce in prima pagina, e questo crea indubbiamente anche un certo allarme. Però insomma non bisogna, credo, stare completamente tranquilli. Alcuni esperti addirittura in questi giorni hanno lanciato delle previsioni terribili, si parla addirittura di migliaia di morti, e su questo il sottosegretario per la salute al welfare Fazio è stato molto chiaro e ha continuato a predicare la calma. Noi intanto torniamo a Messina, sabato scorso, dove si registra il secondo decesso in Italia per influenza A. Roberta Pelegatta. Soffriva da tempo di broncopolmonite, la donna morta ieri all'ospedale Papardo di Messina, dove era stata ricoverata il 30 agosto scorso per aver contratto il virus H1N1. Si trovava in rianimazione ed era in coma farmacologico. 6 giorni fa i medici guidati dal professor Tanino Sutera avevano cominciato a somministrarle in via sperimentale un farmaco con un'alta percentuale di proteina C attivata, attraverso il quale speravano di poter superare il coma farmacologico e arrivare alla guarigione. Poi l'aggravamento e la morte è dovuta, spiega Tanino Sutera, ad un peggioramento della respirazione. L'assessorato alla sanità regionale, d'intesa con il sottosegretario alla salute Fazio, ha disposto un'ispezione all'ospedale messinese per accertare le cause del decesso e la correttezza delle modalità terapeutiche eseguite. La donna, che lavorava a Messina, aveva 46 anni, 2 figli, e aveva contratto il virus da alcuni familiari rientrati da Londra. È la seconda persona, dopo il 51enne di Secondigliano, a morire in Italia dopo aver contratto il virus dell'influenza A. In realtà sulla morte della donna di Messina si è aperto un caso, perché la sorella della vittima, che è medico, quindi si presume sia anche competente in materia, ci ha tenuto a precisare che la sorella era sana e quindi la sua morte è del tutto inspiegabile. Il caso rimane aperto, tra l'altro, quindi vedremo quando si risolverà. La procura stessa di Messina ha aperto un'inchiesta. Sentiamo allora il servizio in onda nel GR delle 19 di mercoledì, firmato da Elisa D'Alto. L'ultimo caso accertato di influenza A è un ragazzo di 17 anni ricoverato da sabato scorso al Policlinico di Messina con i sintomi influenzali e già sofferente di asma bronchiale. Sempre a Messina sono iniziati gli interrogatori in procura dei medici indagati per la morte di Giovanna Russo. L'inchiesta dovrà stabilire se sia stata curata in modo adeguato, mentre ci vorranno 60 giorni per avere i risultati dell'autopsia e chiarire se la donna sia la prima vittima diretta dell'influenza A. Intanto migliorano le condizioni dell'uomo ricoverato ieri a Trapani e dati positivi arrivano dall'Istituto statunitense per le malattie infettive. Secondo uno studio, il vaccino contro l'influenza A si è mostrato efficace nei bambini, come ci spiega il professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Hanno studiato l'effetto del vaccino nei bambini. Si è visto che i bambini che hanno dai 10 ai 17 anni, il 76% di questi bambini, dopo una singola dose di 15 microgrammi di vaccino, che è esattamente la dose che si fa per l'influenza stagionale, ebbene, questi bambini dai 10 ai 17 anni, il 76% di loro ha una risposta anticorpale, cioè forma abbastanza anticorpi da poter prevedere che loro non prenderanno l'influenza. Ieri c'è stato l'ultimo bollettino dell'OMS sull'influenza A, l'ultimo dallo scoppio dell'epidemia in aprile. Finora si registra un totale di 3.917 morti in tutto il mondo, quindi c'è un incremento consistente di 431 morti rispetto agli ultimi dati forniti dall'OMS la settimana scorsa. Finora praticamente in tutto il mondo ci sono stati casi di influenza A, il totale dei paesi contagiati è di 191. E invece adesso, in questo riepilogo della settimana, non possiamo dimenticare i funerali di Stato per i 6 militari uccisi giovedì scorso in Afghanistan. I funerali si sono tenuti nella Basilica di San Paolo a Roma lunedì. Per Radio 24 c'era Andrea Viali. Il piccolo Martin, che accarezza il feretro del padre e con il suo basco in testa fa il saluto militare, poi la commozione composta di tutti i familiari. Sono le immagini che restano dei funerali celebrati ieri nella Basilica di San Paolo. Una cerimonia solenne, presenti le più alte cariche dello Stato, ad officiarla l'ordinario militare Monsignor Pelvi, che nella sua omelia ha voluto ricordare per nome i 6 parà uccisi a Kabul. Care famiglie, grazie. Avete insegnato ad Antonio, Davide, Giandomenico, Massimiliano, Matteo, Roberto, il lessico della pace. È stato invece Gianfranco Paglia, il parlamentare ex Parà, ferito in Somalia e da allora costretto su una sedia a rotelle, a leggere con il piccolo Martin al suo fianco la preghiera del paracadutista. Se è scritto che cadiamo, sia, ma da ogni goccia del nostro sangue sorgano gagliardi figli e fratelli in numeri, orgogliosi del nostro passato, sempre degni del nostro immancabile avvenire. Grazie ragazzi. Unico fuori programma l'incursione di un uomo che è salito sull'altare, ha preso uno dei microfoni e ha gridato pace subito, prima di essere bloccato e allontanato. Abbiamo ancora qualche minuto e lo vorrei spendere per alleggerire un po' i toni parlando di sport, perché sono sempre molti i fatti sportivi della settimana. Nel calcio addirittura ci sono state ben due giornate di campionato che hanno riproposto, almeno prima delle partite che cominciano oggi, in testa alla Serie A Inter e Juventus a pari punti. Poi il ciclismo sta vivendo la sua settimana dei mondiali su strada. Nel tennis c'è il ritorno dell'ex numero uno, la belga Justine Henin. Uno scricciolo rispetto ai colossi, alle due sorelle, alle poderose Williams, però insomma anche grande talento per la tennista belga. Però direi che la notizia delle notizie è tutt'altra, arriva dalla Formula 1 e riguarda la super condanna inflitta a Briatore lunedì. Sentiamo da Parigi Igor Fiatti. Massima pena per Flavio Briatore, clemenza per i piloti e la Renault. Questa è in sintesi la sentenza della FIA sul cosiddetto caso Crashgate. A Parigi la FIA è stata così chiamata a decidere sulle accuse lanciate dal pilota brasiliano Nelsinho Piquet, che aveva detto di aver deliberatamente provocato il suo incidente nel Gran Premio di Singapore nel 2008 su pressione del team manager Briatore e del direttore tecnico Pat Simmons. Il tutto per favorire la vittoria del compagno di scuderia Fernando Alonso, e la FIA ha confermato la veridicità del j'accuse di Piquet, sanzionando la Renault solo con 2 anni di squalifica con la condizionale. A farne le spese invece sono stati Briatore e Simmons. Briatore infatti è stato radiato dalla Formula 1, mentre Simmons è stato squalificato per 5 anni, e dal Crashgate escono completamente puliti sia Piquet che Alonso. Bernard Rey, presidente di Renault Formula 1. Presentiamo le nostre scuse al mondo della Formula 1. Per ironia della sorte, proprio in questi giorni la Formula 1 è tornata a Singapore per il Gran Premio di Singapore, dove l'anno scorso si consumò questo incredibile fattaccio, questo incredibile incidente di Piquet Junior. Io mi aspetto la reazione di Briatore, che è stato troppo in silenzio finora, ma non credo rimarrà appunto in silenzio per molto ancora, quindi non finirà qui la vicenda di Briatore della Formula 1. Invece si ferma qui la puntata dell'Ottavo Giorno. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia, vi ricordo la mail a cui potete scriverci: ottavogiorno@radio24.it. Noi ci ritroviamo sabato prossimo alle 9 oppure in replica alle 23, naturalmente sempre su Radio 24.